Smart City, la città intelligente. Buonasera da Chiara Albicocco. Stasera parliamo di illuminazione pubblica, perché l'illuminazione pubblica costituisce il 12% del totale dell'energia elettrica che noi utilizziamo per illuminare, che viene consumata nel nostro paese. Con l'attuazione di interventi idonei ad hoc si potrebbe avere un risparmio di circa il 30%, che detto in soldoni corrisponde ad un risparmio, pensate, di 400 milioni di euro l'anno. L'ENEA, che è l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico, porta avanti da tempo un progetto che si chiama Lumière. È un progetto di ricerca che ha l'obiettivo di promuovere l'efficienza energetica, soprattutto in questo campo dell'illuminazione pubblica, ed in particolare di favorire la riduzione dei consumi di energia elettrica, soprattutto nei nostri comuni. Con noi stasera c'è Gian Piero Celata, buonasera. Buonasera. Lei è responsabile dell'unità tecnologie avanzate per l'energia e l'industria di Enea. Esatto. E le chiederei insomma di iniziare con raccontarci che cos'è Lumière e poi passiamo a quelle che sono le linee guida che voi avete messo a punto. Benissimo. Il progetto Lumière è un progetto di ricerca e trasferimento strutturato dall'Enea con l'obiettivo di promuovere l'efficienza energetica nel settore dell'illuminazione pubblica. È quindi un progetto dedicato ai comuni, ai loro sindaci ed amministratori, al fine di supportarli nella programmazione e realizzazione di interventi di efficientamento dei loro impianti di illuminazione pubblica e nell'acquisizione di una maggiore competenza e consapevolezza nella gestione energetica del territorio. È un ente di ricerca come l'Enea, diciamo, che fornisce tutto il know-how per appunto gestire in maniera intelligente quelli che sono i comuni che aderiscono. Ecco, qui come funziona? Dei comuni aderiscono all'iniziativa e voi cominciate a inquadrarli, cioè a studiare il consumo? Assolutamente sì, assolutamente sì. Diciamo che abbiamo identificato due problemi principali. Una è la carenza di disponibilità economiche, l'altra è una carenza di conoscenze e di competenze tecnico-scientifiche all'interno dei comuni. Certo. Quindi l'Enea cosa fa? Ha contattato in questo progetto tutti i comuni italiani al di sopra dei 6.000 abitanti, c'è stata un'adesione di 450 di questi comuni, per i quali abbiamo raccolto i dati della loro illuminazione pubblica, abbiamo fatto una mappatura andando a verificare gli scostamenti dai valori medi ottimali, dopodiché quindi andiamo a suggerire un audit energetico e quindi tutto un percorso che li porta, volendo, all'efficientamento energetico del loro impianto. Per far questo abbiamo definito, come accennava lei, delle linee guida che aiutano il comune dall'adesione fino al traguardo finale. A questo proposito le chiedo di raccontarcene qualcuna, quali sono gli interventi che possono mettere in atto questi piccoli comuni di cui l'Italia è piena? Il primo problema è aiutarli nella definizione di un audit energetico. La prima cosa che fa un medico per aiutare il paziente è andare a vedere lo stato di salute del proprio organismo, quindi certo. Il primo passo da fare in un impianto di illuminazione è andare a vedere lo stato di salute energetica dell'impianto stesso. Quindi aiutiamo nella definizione di un modello di audit energetico che poi viene fatto direttamente al comune gratuitamente da una ESCO. Dico gratuitamente perché l'intero progetto Lumière è finanziato nell'ambito di un accordo di programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Enea, e quindi tutti gli interventi che Enea fa sono totalmente gratuiti per il comune. Ecco, questo quindi è importante, perché lei lo diceva prima, spesso questi comuni hanno pochi soldi in tasca e quindi questo e quindi è un elemento importante. Diciamo, il trasferimento dell'informazione, di renderli edotti del fatto che certe cose si possono fare, è chiaro che se è gratuito ha un impatto evidentemente maggiore. E questi pazienti che voi prendete in cura come sono? Messi bene o male? Non sono messi bene. Ecco. Primo problema è di sicurezza, al di là degli aspetti di risparmio energetico. Credo che circa l'80% degli impianti di illuminazione pubblica non sono a norma. Questo non vuol dire necessariamente, vorrei proprio ribadirlo, che ci si appoggia al lampione e si rimane attaccati al lampione. No, però non sono a norma e questo prima o poi potrebbe dare qualche problema di sicurezza. Anche dal punto di vista delle dispersioni, cioè l'energia che si perde. Esatto, dopodiché poi, non essendo a norma, c'è un problema che ci sono dispersioni di energia e poi soprattutto non c'è quell'intelligenza nella gestione dell'impianto elettrico che porta al risparmio energetico, no? L'energia non la dobbiamo risparmiare spegnendo gli impianti o usando o accendendo meno, no, dobbiamo, essendo un paese civile, industriale, organizzato, imparare a usare meglio l'energia, e questo è dove noi interveniamo. Vado avanti un pochino con, certo, le linee guida. Il secondo passo è, dopo aver capito che l'impianto è energeticamente carente, occorre definire un piano regolatore per l'illuminazione pubblica, quindi andare a stabilire quali sono i criteri, no, che rispettano la progettazione ottimale dell'impianto. Quindi il cosiddetto PRIC, appunto piano regolatore illuminazione pubblica, è un qualcosa che viene fornito, viene aiutata l'amministrazione pubblica, il comune, dall'ENEA a definire il piano regolatore illuminazione pubblica. Dopodiché, una volta che si è arrivati alla condizione di capire anche che cosa bisogna fare un bando di gara dove intervengono le ESCO per realizzare dal punto di vista tecnico l'intervento, ma anche per intervenire dal punto di vista finanziario senza l'intervento, diciamo, economico da parte del comune. Quindi la ESCO alla fine interviene, mette i soldi, recupera una parte del risparmio energetico come compensazione del proprio investimento, ecco, sì. Il comune risparmia pochino per un numero ridotto di anni e da quel punto in poi ha il risparmio globale, l'impianto efficiente, gestione della manutenzione e dei consumi ridotta e dei consumi energetici anche ulteriormente ridotto. Quindi diciamo che proprio fornite il know-how per essere efficienti. Dopo ovviamente il comune può camminare con le proprie gambe, ottimizzare il sistema. Ripeto, anche fino al bando di gara, perché quando si fa una gara bisogna scrivere il capitolato e tutte le cose, e anche su questo l'ENEA interviene. Se qualcuno all'ascolto fosse interessato, abbiamo detto che i comuni che hanno aderito sono 450, ma insomma voi avete braccia larghe per accoglierne altri. Ricordiamo il vostro sito www.progettolumiere.enea.it. Grazie Celata, davvero buon lavoro. Grazie a lei, buonasera a tutti. Per stasera è tutto, noi ci sentiamo domani per raccontarvi di telelavoro, ovvero di quegli strumenti che ci aiutano a conciliare la vita familiare con quella lavorativa. Buona serata.